L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata in cui parliamo di riso e vino. Non ci facciamo il risotto, ma parliamo delle reazioni possibili quando beviamo vino e del perché ci sono queste reazioni. E per quel che riguarda il riso, parleremo di varietà e lo faremo con degli esperti, quelli dell'Ente Nazionale Risi. Iniziamo però, come dicevamo, dal vino. Sabina Rubini è biologa, esperta di sicurezza alimentare, autrice di uno studio specifico sul vino che potrete ritrovare sul sito www.alimentiesicurezza.it e sentiamo appunto cosa ci ha raccontato. Lo studio che ho qui davanti a me inizia proprio con una domanda a stemi. No, esistono delle sostanze nel vino che possono causare malesseri al nostro organismo. Quindi non si tratta di essere allergici così, ma proprio di una reazione chimica a certe sostanze? Allora, dipende, nel senso che in realtà la suscettibilità del soggetto ci deve essere sempre. E in alcuni casi però possiamo dire che, anche se non tutti gli autori in realtà sono d'accordo poi con le evidenze scientifiche, perché alcuni studi magari li mettono in evidenza, altri invece dicono che poi alla fine le quantità non sono accettate tali da dare questo riscontro. Però bisogna dire che sicuramente un accumulo di diverse sostanze può portare un soggetto poi ad avere delle criticità. Ecco, che possono essere, come nel caso del vino, il mal di testa, una emissione di rossore, oppure una sorta di orticaria, rinite vasomotorie, che riconducono in parte a delle reazioni allergiche, ma che in realtà queste reazioni allergiche dipendono dal fatto che vengono introdotte sostanze che producono, ecco, queste manifestazioni patologiche. Cosa cambia tra l'allergia e quest'altra reazione? Nelle allergie abbiamo proprio un'emissione delle IgE, che sono degli anticorpi specifici che proprio mettono in evidenza le allergie. E nel caso invece di queste sostanze non necessariamente noi abbiamo la produzione delle IgE. Questo infatti è, come dire, forse simpatico anche da raccontare, nel senso che noi sappiamo che oggi una delle sostanze, no, che per quanto riguarda il vino viene ritenuta allergenica risulta essere i solfiti, l'anidride solforosa, la famosa SO2. Ecco, in questo caso cos'è che però possiamo dire? Che in realtà la normativa la considera come allergeni, ma in realtà non è altro che una semplificazione normativa, in quanto queste sostanze, i solfiti, non realmente immettono le IgE nel nostro organismo. Però poi la normativa, per far comprendere che potevano essere delle sostanze potenzialmente tossiche, soprattutto per alcuni soggetti anche più sensibili, allora li ha inseriti con il famoso regolamento della Comunità Europea 1169 del 2011, che insomma ormai quasi tutti sentiamo sempre, come allergeni. Però i solfiti, al di là di tutto, sono necessari, no, al processo di vinificazione, quindi si tratta di una differenza di quantità magari tra un vino e un altro. A cosa servono? Allora, prima di tutto i solfiti sono molto importanti perché hanno due azioni, che sono un'azione antisettica selettiva. Che cosa vuol dire? Che praticamente loro hanno la capacità di inibire eventuali microrganismi o lieviti dannosi per il processo produttivo del vino. Poi hanno anche un'altra caratteristica, che è quella antimicrobica. Quindi diciamo che hanno un'azione, e infatti proprio per questo motivo comunque i solfiti non è che vengono utilizzati solo nei processi vitivinicoli, ma vengono utilizzati anche nei processi produttivi dalle aziende agroalimentari per quanto riguarda la produzione di anche altri tipi di alimenti. Diciamo che, come giustamente ha detto lei, è la quantità che fa la differenza, e proprio per questo motivo negli anni poi questa quantità è stata normata. A proposito di normative, vedevo nel suo documento che la normativa non si occupa di ammine biogene. Cosa sono e come mai appunto ancora non ci se ne occupa? Siamo vitamine biogene in realtà non sono altro che dei prodotti che vengono ottenuti per diciamo decarbossilazione, purtroppo devo usare questo termine un po' tecnico, da parte dei microrganismi su base di aminoacidi. Allora, questi aminoacidi possono trovarsi sia normalmente nei vari alimenti, sia anche a livello del vino. Allora, che cosa succede? Che queste vine biogene sono, giusto proprio per fare qualche esempio, istamina è un nome che normalmente ormai quasi tutti conosciamo. Ecco, questa è una mina biogena, oppure la tiramina, putrescina, cadaverina. Che cosa sono queste sostanze? Sono sostanze che vengono anche prodotte all'interno dell'organismo, però in quantità normali e in quantità soprattutto più che normali, diciamo, quando un organismo è sano, quindi un organismo ha normalmente la capacità di avere il suo sistema di detossificazione, no? Quindi sia a livello epatico che a livello intestinale riesce a metabolizzarle, non danno alcun problema. Però nel momento in cui vengono prodotte dall'organismo, abbiamo un sistema che non detossifica bene, in presenza di alimenti che le contengono, quindi per esempio può accadere che a livello del vino, e magari dopo spiegheremo brevemente perché, vengono prodotte in quantità e in, magari abbiamo anche una comunanza con dei farmaci che stiamo prendendo, oppure la presenza proprio dell'etanolo stesso, quindi dell'alcol, che tende ad aumentare la permeabilità intestinale, quindi anche se sono poche però vengono assorbite in quantità elevate, danno delle cause all'organismo che sono simili per certi versi a quelle che danno i solfiti. Quindi generalmente che cos'è che abbiamo? Naturalmente a seconda delle varie ammine biogene noi possiamo avere, nel caso dell'istamina, mal di testa, eruzioni cutanee, nausea, vomito, oppure nel caso della tiramina anche qui mal di testa, eccessiva salivazione, problemi respiratori e così via. Quindi in alcuni casi ci si è posto il problema, visto che si producono anche nel vino, allora non è che forse invece dei solfiti quello che ci può dare delle problematiche possono essere queste ammine biogene? Ma non c'è ancora risposta. Allora, in realtà alcuni studi hanno portato al fatto che non si può parlare di una sola ammina biogena, no? E allora molte volte questa è una questione di accumulo di sostanza. Allora, immaginiamo un esempio. Noi abbiamo nei vini ci può essere la quantità di ammine biogene che viene riscontrata. Poi nella stessa serata noi mangiamo dei formaggi. Ora si è riscontrato che ci sono dei formaggi che, per esempio, gli erborinati per intenderci, Roqueforti, Camembert, queste cose qui, hanno un quantitativo, in questo caso di tiramina, abbastanza alti, che arrivano fino a 2000. Oppure Roquefort arriva fino a 1110 e come istamina 2300 mg. Quindi se noi immaginiamo di bere del vino, di mangiare del formaggio, poi si è visto anche che ci sono delle verdure che contengono queste ammine biogene. Quindi ecco, immaginiamo una serata in cui ci può essere un cocktail di vari alimenti che però vanno a creare un accumulo che in un momento, soprattutto su soggetti più sensibili o su soggetti che in quel momento hanno un affaticamento del loro sistema di detossificazione, può portare anche alla semplice comparsa di quel forte mal di testa che normalmente invece si addebita solo alla presenza dei solfiti. Per quanto riguarda il vino, ci sono state alcune nazioni che si sono autodisciplinate, ecco, diciamo così. E allora, per esempio, la Germania ha stabilito per l'istamina 2 mg sul litro, oppure la Svizzera e l'Austria 10 mg sul litro, o ancora la Francia 8 mg sul litro. Ecco, l'Italia ancora non l'ha fatto, però probabilmente, chissà, forse in un futuro lo farà. Certo è che però siccome di questo problema poi si sente parlare, e allora si è cercato di creare anche un po' di ordine a livello internazionale, per cui l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, la cosiddetta OIV, in un certo senso ha dato vita ad un codice delle corrette pratiche vitivinicole, atte a limitare al massimo la presenza appunto di questi ammine diogene. Questo perché? Perché in realtà si è visto che le pratiche vitivinicole sono importanti. Ad esempio, noi prima avevamo parlato dei lieviti, no? Questi lieviti che sono indispensabili, mettiamo nel caso del vino, per proprio dare il là a tutto il processo. Ecco, si è visto che per esempio dei lieviti già selezionati, che a monte danno una produzione più bassa di ammine biogene, sicuramente possono portare alla fine di tutto il processo ad un quantitativo più basso, come del resto, per esempio, mantenere un, chiamiamolo così, un assetto più stringente su alcune caratteristiche, quali possono essere il pH, perché che cosa si è visto? Un pH un po' alto, anidride solforosa minore, grado alcolico basso, temperatura di conservazione alte del vino, ad esempio, portano ad una maggiore produzione di queste ammine biogene. E allora già intervenendo sui lieviti, intervenendo sull'anidride solforosa e sulle temperature, allora noi riusciamo a mantenere un controllo anche sulle ammine biogene. E qui però vorrei fare un inciso, se me lo permette. Allora la domanda dovremmo farcela invece per quei vini, come per esempio, ritorniamo al vino biodinamico o ai vini naturali, dove invece non si permette, perché noi abbiamo detto che per esempio nel vino biologico noi per deroga permettiamo lieviti selezionati, invece in questi vini, quelli biodinamico e quello, il vino naturale, per non parlare poi del vino fatto in casa, in realtà non è assolutamente ammessa la presenza di lieviti selezionati. E allora forse, una presenza di ammine biogene in questi vini può essere più alta. L'attenzione bisogna metterla da tutte le parti, insomma. Cioè immaginare che non sempre tutto ciò che noi immaginiamo che sia poi totalmente naturale lo sia e poi ci faccia altrettanto bene, insomma, ecco, solo perché ha questo marchio, diciamo. Allora, io ringrazio Sabina Rubini, ricordo biologa, esperta di sicurezza alimentare, buon lavoro e allora a risentirci alla prossima occasione. Grazie a voi. Ricordo ancora una volta il sito www.alimentiesicurezza.it per approfondire la questione. Facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo per parlare di risi. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, la seconda parte dell'altro pianeta ed è la volta di parlare di riso. C'è stato un incontro al centro ricerche dell'ente nazionale Risi, che si trova a Castello d'Agogna, provincia di Pavia, al confine con il Piemonte, quindi nel pieno di una delle aree risicole del nostro paese. L'altra grande area è ovviamente quella del Veneto. L'Italia è la prima in Europa per produzione di riso. Da noi si producono circa 1.500.000 tonnellate di riso annue su una superficie di 234.300 ettari. Un terzo della produzione è destinato al consumo interno, il resto è destinato all'esportazione in Europa e nel mondo. In Italia si coltivano 140 varietà di riso. Abbiamo chiesto a Cinzia Simonelli del Centro Ricerche presso l'Ente Nazionale Risi di aiutarci a raccapezzarci tra queste decine di varietà. Sono tantissimi, perché in Italia ogni anno vengono iscritte circa una quindicina di varietà di riso nuove. Sono sempre molte e ormai abbiamo sforato i 180 varietà di riso. Noi quando andiamo al supermercato abbiamo dimestichezza con quelle 15-20 tipologie. Questo perché c'è un decreto ministeriale che aiuta il consumatore, perché questi risi vengono tutti raggruppati in 4 gruppi merceologici: originario, quindi risi per le minestre, fino, semifino, super fino, che sono i risi da risotto. All'interno di questi macro gruppi, che comunque troviamo indicati nei pacchetti, abbiamo poi un'ulteriore suddivisione in tipologie di riso in cui andiamo ulteriormente nel dettaglio. Per esempio, se compriamo un pacchetto di carnaroli, dentro troviamo sì il carnaroli, ma anche il carnac, il carnise precoce, cioè altre varietà analoghe. Questo perché? Perché nel tempo le varietà hanno una loro evoluzione, vengono selezionate varietà che assomigliano molto alla tipologia carnaroli, però magari la pianta in campo si ammala di meno, ha una più elevata produttività. Sono tutte caratteristiche che i breeder cercano, per cui ecco perché ci sono così tante varietà e ogni anno si va a cercare la varietà, diciamo, migliore, una varietà con un'innovazione in più. Poi ci sono tante nuove frontiere, per esempio oggi vanno molto i risi aromatici. Si è creata questa diciamo così alternativa alle varietà che arrivano dall'India, dal Pakistan, come il basmati, ma abbiamo le nostre varietà italiane finalmente. Quindi nascono da quelle? Allora, diciamo che l'idea è quella. È quello. Le varietà aromatiche sono quelle che cuocendo sviluppano un aroma molto particolare, simile al popcorn, per cui molto piacevole, e quindi vanno molto bene ad esempio per fare le insalate o per fare i piatti di contorno. Questa caratteristica è molto appetibile, quindi apprezzata. Se noi prendessimo una pianta di basmati però e la coltivassimo in Italia, non arriverebbe a maturazione, proprio perché è diverso il nostro clima e tutto quello che è di contorno. Così i breeder hanno sviluppato delle varietà del tutto italiane. Sono i genetisti, okay, coloro che fanno una selezione assistita, quindi facendo degli incroci in campo, e hanno selezionato delle varietà che hanno questo carattere di aroma e che quindi cuocendo sviluppano questa caratteristica, ma sono assolutamente italiane, e quindi varietà come il Fragrance, il Giglio, il Gange ormai sono diverse e le troviamo appunto come alternativa alla varietà esotica. E queste quindi si sono aggiunte. Addirittura invece sono altre, raccontava prima dei risi millesimati, che sì, invece sono varietà già presenti, ma che vengono, diciamo, lavorate. Stagionate. Vengono stagionate, per esempio sono soprattutto risi, diciamo così, preziosi se vogliamo, come il Carnaroli, che sono varietà da risotto, che sono molto apprezzate appunto per le loro caratteristiche. Cosa succede? Vengono stagionati e lavorati dopo 2-3 anni di stagionatura, e queste tipologie di riso noi diciamo che è come se si stabilizzassero, quindi rilasciano per esempio meno amido alla cottura, danno delle caratteristiche di consistenza e collosità più apprezzabili, che sicuramente i grandi chef sanno valorizzare al meglio i loro piatti, e quindi spesso optano per questo tipo di risi stagionati. È anche il periodo storico delle riscoperte dei risi integrali, ma riscoperte anche di varietà magari tramontate, storiche. Sì, varietà storiche, per esempio come il Rosa Marchetti, il Nuovo Maratelli, il Gigante Vercelli, sono varietà che con gli anni erano state un po' dismesse. Adesso, un po' per nostalgia, un po' perché piace comunque una riscoperta, ci sono alcuni amatori che le stanno ricoltivando e quindi riproponendo al mercato. Mentre altro discorso è quello dei risi integrali, e qui si apre proprio una grossa tematica, perché abbiamo i risi integrali classici, che sono quelli che al supermercato vediamo con un colorino marroncino, insomma un po' più scuro rispetto al riso normale. Sono importanti perché hanno un più elevato contenuto nutritivo rispetto al riso lavorato, perché contengono... I risi lavorati poi alla fine hanno un contenuto nutritivo più o meno simile a nonostante le diversità. Esatto, il contenuto di lipidi e proteine è sempre bene o male confrontabile, mentre gli integrali hanno un contenuto di lipidi e proteine più elevato rispetto a quelli lavorati, perché contengono questi nutrienti nella loro parte superficiale, con la lavorazione meccanica vengono asportate. E poi c'è la curiosità dei risi pigmentati, che sono risi integrali però colorati, quindi rossi o neri, quindi con questi pigmenti. Ma oltre ad essere belli da vedere, quindi proprio per fare dei piatti decorativi carini, hanno anche la caratteristica che contengono un elevato contenuto di antociani e flavonoidi, che hanno una naturale proprietà antiossidante e antinfiammatoria, quindi anche, diciamo così, in supporto con delle terapie farmacologiche possono essere assunti perché aiutano l'organismo. E l'ultimo aspetto era quello che aveva toccato delle caratteristiche dei risi, quindi dell'amido che hanno, la risposta che possono dare in cucina. Ripassiamola. Ecco, il riso è costituito, il riso lavorato, quindi il riso bianco che troviamo al supermercato, è costituito per circa l'80% di amido, ha un contenuto molto basso di grassi e relativamente basso di proteine. L'amido è costituito da due tipi di molecole, l'amido lineare, amilosio, e l'amido ramificato, amilopectina. È proprio l'amilosio e il suo contenuto che è responsabile delle diverse caratteristiche in cottura che hanno i diversi tipi di riso. Per esempio, un riso a basso contenuto di amilosio è un riso molto morbido, un riso che rilascia amido durante la cottura, adatto per le minestre. Ha una bassa... Rifacendoci a quelle quattro categorie che diceva prima, sta nella prima, originario. Esatto. Esatto, poi abbiamo dei risi a medio contenuto di amilosio, sono i risi quelli da risotto che, pur avendo una buona tenuta in cottura, nella fase finale rilasciano leggermente l'amilosio e permettono una buona fase di mantecatura, quindi hanno anche una diciamo media collosità. E poi abbiamo i risi ad alto contenuto di amilosio, li riconosciamo al supermercato perché sono quelli con la forma affusolata, i cosiddetti lungo B in gergo tecnico, hanno una elevata consistenza e una bassa collosità. Significa che quando li cuociamo il chicco rimane molto sgranato, per cui vengono valorizzate le verdure, per esempio, che mettiamo in accompagnamento, e sono adatti per fare le insalate oppure per essere sottoposti al processo di parbolizzazione. Quindi quello che non scuoce. Esatto, il riso che non scuoce. Il processo di parbolizzazione è una sorta di precottura. Dicevamo prima che il riso è povero di lipidi e di proteine che si trovano soprattutto nella parte superficiale del granello. Il risone, che invece ha un contenuto più elevato, viene sottoposto a questo processo, per cui i nutrienti migrano nella parte interna, e nel momento in cui si lavora il riso parbolizzato abbiamo un riso che tiene la cottura e ha anche un più elevato contenuto di nutrimenti. L'ultima curiosità, voi in laboratorio qua, quindi via via che vi arrivano li catalogate tutti, quindi avete una banca di tutti i risi possibili, non solo italiani ma anche magari esteri? Noi abbiamo una banca del germoplasma, che poi avrete modo di visionare, che è vastissima, e noi in particolare come laboratorio chimico-merceologico andiamo a fare le analisi per CREA Exense, che è l'ente deputato all'iscrizione delle nuove varietà ogni anno per le nuove varietà di riso. Di solito facciamo la determinazione dell'amilosio, consistenza, collosità, e un altro aspetto molto importante è anche la dimensionalità del granello, quindi la lunghezza e la larghezza, perché ci permette di catalogarlo attraverso un regolamento europeo che suddivide diversi risi in tondi, medi, lungo A e lungo B. Grazie a Cinzia Simonelli del Centro Ricerche dell'Ente Nazionale Risi. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e di fine settimana.